c'è il voodoo nel tempo che non hai scelto. Mi chiedi come sto, cazzo sempre peggio. Qui nella trincea la mina è dentro, e se si innesca esplodi a stio intenso, il cervello è disperso. La società è una scroffa che divora i propri figli, costretti imprigionati e piegati o si sporchi fini fili. Vagando cercano sempre le stesse cose, chiusi negli schemi, ripetuti alla nausea con pose che son memoria, le ho già viste a migliaia di volte. E queste greci cosa possono farci d'altronde? Non sanno neanche chi le muove sui fottuti progetti. Strage dell'identità, pezzi sono tutti infetti da un morbo che li spinge a rimbalzare in posti uguali, uguali gesti. E la realtà che fa cagare a getti, getti to di merda che gli sbatto in versi. Quando il voodoo in mezzo a loro stanno attenti, ma non leggono gli spenti, ben distanti dall'amalgamata massa. La testa gli si infrazica, si frazza. L'ultimo neurone che è rimasto in vita recita il sermone al contrario, non la setta ma la fuoriuscita. Cricca, il suono spontaneo è come una fitta spinta oltre il sistema che vi stritola. Volo, orrenda realtà, e mi cerchi di adattarti alla merda della civiltà. La via più comoda e più facile è la trappola, credi di avere un senso, ma sei soltanto carne in scatola. Volo, orrenda realtà, e mi cerchi di adattarti alla merda della civiltà. La via più comoda e più facile è la trappola, credi di avere un senso, ma sei soltanto carne in scatola. Erranti nell'orrore, ore in piena notte fonda, come una scura ed dolore sta creatura immonda. Sonda il cuore col fetore, il buon umore sfonda in onda, barca motore con bore, il tuo battello affonda, fionda zattere di salvataggio dopo star rembaggio in caccio. Viaggio virtuale nell'ombra, in un miraggio un saggio legge un presagio malvagio, un grece non regge il contagio. La gente è cagionevole ma si sente a suo agio, gioca con te sta società, un raggiro, un depistaggio. Giocano un ruolo, tu stai pagando solo un bel pedaggio, ostaggio nel linguaggio che massifica il messaggio e ci assopra. Capiscono coi reality da giugno a maggio. Oggi non c'è pareggio, oggi abbiamo fallito il saggio. Oggi è la legge che protegge questo sciacallaggio. Questo è il naufragio della civiltà che andava ad agio. La verità diventa avidità in sto passaggio. Oggi c'è il sole e fa più caldo ma non vedo un raggio. Oggi siamo greci e nell'ingiusta noi facciamo formaggio. Vogliamo foraggio col di bacio e se somaggio il traggio. Se il tuo retaggio è alto sembra che sia gaggio. L'ho già detto tempo fa, ci mastica sto mondo in plastica. La via più pratica è adattarsi ma sei carne in scatola. Oh, realtà è che cerchi di adattarti alla merda della civiltà. La via più comoda e più facile è la trappola, credi di avere un senso ma sei soltanto carne in scatola. Oh, l'orrenda realtà è che cerchi di adattarti alla merda della civiltà. La via più comoda e più facile è la trappola, credi di avere un senso ma sei soltanto carne in scatola. Our society is fucked up. Potere sui morti e sui vivi. Con questa bambola siamo in grado di infliggere dolore ai nostri nemici. I sistemi di trasmissione ad alto contenuto tecnologico. Questa attività produttiva è supportata da dotazioni d'avanguardia e dotato dei più innovativi sistemi di produzione audio e video. Sei uno stregone? Quindi credi negli spiriti? Lo spirito della terra, lo spirito del sole? Sì, certo. Interessante. Ognuno di noi crede in qualcosa. Cos'hai appeso al collo? Ah. È una croce. Se una figura come Dio così magnifica e così onnipotente è possibile. È possibile tutto. Giusto? Ma sì, ma io non...